Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 11 minuti dopo le 22, bentrovati su Blu Radio Veneto. La voce è quella di Sergio Bortolami e dall'altra parte del vetro abbiamo la voce di Maurizio Calzavara. Maurizio, anche questa sera il nostro classico appuntamento con la musica rock tradizionale ormai il mercoledì. Io ringrazio che sei venuto a darci una mano stasera dopo due mesi di... ho un'ansia tremenda. Però è positivo, il rock fa piacere, fa amare sempre le cose, quindi e si ritorna. E sei dal vivo, è sempre una cosa nuova. Esattamente. Prima abbiamo sentito Iesi per aprire in bellezza con i Pop Mantica. Buonasera Pop Mantica. Ciao, buonasera. Avete fatto un buon viaggio da Roma? Sì, sì, abbastanza riposante. Con l'aria condizionata a palla. Ah, bene. Benissimo. Avete fatto abbastanza presto. Senza traffico. Dalle 11 fino alle 5 del pomeriggio avete fatto relativamente presto, dai. Alla grande, considerando che abbiamo fatto anche diverse soste. È andata bene. È andata molti veramente... caffè. È andata veramente bene. Bene, è una cosa molto positiva. Venire da Roma a Padova per suonare è una cosa decisamente importante, secondo me, con tanta volontà, con tanta forza. Ringraziamo anche la vostra come si chiama? Antonella. L'Antonella, che grazie ad Alberto Pisco, il nostro direttore artistico, vi ha portati qua stasera. Io sono molto contento perché finalmente ospitiamo una band che viene da Roma, una band che fa una musica loro particolare, assolutamente vostra. Non assolutamente nostra, vostra sì. Al 100%, 100%. Esattamente. Pop-matica è il nome della band e il titolo del disco, che è molto interessante, che questo anche Beethoven è pop. Mi pare giusto che Beethoven sia pop, Giuliano, sì, cosa sì. Dici? No, intanto volevamo dare un titolo che destasse curiosità e facesse fare proprio una domanda: ma perché hanno intitolato il disco in questo modo? E poi anche per dire, attenzione, noi facciamo pop, ma non storcere la bocca perché pop non è una brutta parola. No, pop vuol dire popular, quindi vuol dire proprio una dimensione totale a 360 gradi. Esatto, che... però molto spesso questo termine viene denigrato, no? Cioè ne viene fatto un uso un pochino così, denigratore, per cui... Sì, quindi niente, insomma, quindi attenzione, perché anche Beethoven è pop. Certamente. E tra l'altro, neanche a farla apposta, recentemente ho trovato un'intervista su internet a Joe Jackson, sì, che ha detto la stessa cosa, parlava del pop e alla fine ha detto no, perché per me anche Beethoven è pop, per cui perfetto, quindi siete in perfetta sintonia, possiamo dire. Abbiamo subito postato su Facebook. Esattamente. Quindi non siamo solo noi i pazzi qui. Giuliano, ci presentiamo. Stasera siete in due, però la formazione siete in tre, chiaramente. Sì, siamo in tre, manca il nostro batterista che per motivi di lavoro non è potuto venire. Lo salutiamo via internet, ci sì, sente? Sì, ci sta sentendo al computer, però ce lo siamo portato dietro sotto forma di batteria elettronica. Ecco, perfetto. Qui, virtualmente lui è qui. E che batteria elettronica poi, eh? Poi ne parliamo. Sì, poi Giuliano, tu cosa suoni praticamente? Io suono la chitarra e tento di suonare le corde vocali. Andrea? Andrea suona il basso e tenta anche lui di fare qualche corno. Mentre il batterista, che si chiama Maurizio suona la batteria e qualche altra percussione. Praticamente. Sì, di solito lui in questi casi ha un set di percussioni insomma un po' acustico. Sì, sembra proprio Lino Banfi nel film. Oh, come sono contento! Come si... non mi ricordo il titolo, però insomma sì, più o meno. Sì, ho capito. Percussioni in ogni arto. L'idea di fare questa band, come è nata, Giuliano? In realtà questa band c'è sempre stata. Allora preparati, perché qui abbiamo un quarto d'ora di cose da raccontare. Abbiamo tempo. C'è sempre stata, ma non eravamo consapevoli, perché noi ci conosciamo da tanto. Col batterista siamo amici da piccoli proprio. Con lui da 20 anni ormai, sì. con Andrea. E solo che io prima ero batterista, quindi eravamo due batteristi e un bassista. È un po' difficile fare una band e così. Quindi non ci parlavamo sempre di musica, ci frequentavamo, ma non suonavamo. Ma suonavamo in band diverse. Diverse, sì. Io suonavo a turno una volta con Giuliano, una volta con Maurizio, in band differenti. Perché il basso è molto ricercato nelle band. Il batterista si trova, ma il basso mica tanto, cosa dici? Sì, il basso è lo strumento cardine sottovalutato. Che spesso viene confuso da una chitarra. Per una chitarra. Però esatto. Dipende, per noi bassisti è difficile trovare i batteristi bravi con cui suonare. Beh, l'hai trovato io nella avevo band. Due. Ah, ne avevi due bravi, quindi potevi scegliere praticamente. Quindi, però, c'è un però. Dimmi perché. Comunque, in tutto questo io e Giuliano avevamo sempre in mente di fare... band originali, brani originali. Questo è positivo, perché il discorso delle cover che avevamo parlato oggi mentre li accompagnavo per Padova, se è importante sì, però dopo stanca, cose di originali, proprie, è tutta un'altra cosa, cosa dici? Sì, sì, no, noi avevamo una cover band Di Police, cosa? Dei Police. Ah, dei Police. Dove, tra l'altro, ero lì mi ci mettavo come batterista, quindi era un lavoro arduo. Però l'esigenza di fare contemporaneamente brani originali c'è sempre stata, non si può, per noi non si è imprescindibile, c'è poco da fare. No. Sì, tanto è vero che insomma abbiamo avuto diverse band originali, ma qual è il motivo che ci ha portato poi a formare la Popmatica? Ma, guarda, il pallino di passare alla chitarra e alla voce ce l'avevo da qualche anno. E, prima di questo passo importante abbiamo avuto una band importante che ci ha portato anche da queste parti. Cioè, come si chiamava? Anzi, si chiamava Kyo. Ah, ho capito. Io ero batterista, lui bassista, poi c'era cantante chitarrista e eravamo nelle grazie del produttore di Vasco. Ah, però. Capito? Quindi, poi... quindi certe porte erano aperte praticamente. Sì, sì, è un periodo che frequentavamo Bologna, insomma, lo studio. Lo studio. Conoscemmo anche Vasco. Ah, però. Quindi. Sì, sì, è stata una bellissima esperienza. Che si ritira. Sì, esatto. Bah, sì, ma voglio vedere fino a quanto. Ma secondo me ma no. Ma dai. Non ce la farà. Ma. È come Baglioni va in convento. Questa mia è nuova. Sì, sono pure cose che si dicono, ma bisogna vedere se poi si fanno. Parole, soltanto ma, parole. Ma secondo voi Vasco, non può ritirarsi Vasco? È un... Farà meno concerti. Sarà meno concerti, ma non si può ritirare. Cosa dici? Ma lui, penso anch'io. Lui ha detto che si dimette da rockstar. Sì, non esatto, ha detto sì. Smetto di suonare. Sì. Penso mi dimetto che da rockstar. Si scrolla di dosso il personaggio, credo. Può darsi che sia così. Cioè, a 60 anni fare... 5-6 mesi di concerti continuativi è un po' pesante, indubbiamente. Chissà che adesso faccia anche qualcosa di meglio. Ops. No, ma ci trovi d'accordo. Sì, perché gli ultimi, giustamente si è un po' perso. Sì, gli ultimi dischi sono effetti... fotocopie dei precedenti. Venendo in macchina, ascoltavamo C'è chi dice no, che per noi è un disco mitico, cui si è perso un po' questo. Si è un po' perso. E dicevamo, adesso dovrebbe fare dischi così. Lo so. Sai, quando sono arrivati a un certo culmine della parabola, ha un grande gruppo, d'accordo, suona con un gruppo strepitoso, però le idee sono sempre quelle. Ma noi avremmo da ridire anche lì. Anche del gruppo? No, però diciamo che il clima quasi da grande famiglia che c'era all'epoca forse... Non c'è più, vero? Si è un po' perso. Ma è diventata una rockstar, è quello il discorso, un discorso che è proprio parte da quello... Come abbiamo parlato stasera mentre il microfono era spento fra noi, cioè in Italia uno diventa una rock star è alto, molto alto, invece purtroppo dovrebbe ricordarsi che quando non era rock star era a livelli normali, però dipende dalla persona, quindi non c'è niente da fare. Vai. Anche ritorniamo se, a voi. Anche se personalmente è molto, molto umile. Ecco, allora questo... sono gli altri che lo pompano forse, al di fuori, l'entourage. No, conoscendolo un po' di persona ci ha fatto è tutta un'altra cosa. Un'ottima impressione. Insomma. E allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona probabilmente. Ma sono cose di Vasco, adesso stiamo parliamo di voi. Stiamo chiacchierando un po' troppo. Hai ragione, hai ragione. Andiamo a sentire qualcosa dal disco dei Popmatica, la traccia numero 6, che si intitola Assuefazione. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. passione complice, la nostra distrazione, stretti in un letto caldo di consuetudine, assuefazione complica la nostra situazione. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave, l'onda del rock. Nel corso di Rock Wave, questa sera siamo insieme al gruppo dei Popmatica in diretta, insomma, provenienti da quel di Roma. Abbiamo appena ascoltato la traccia 6 del loro disco che si intitola Suefazione. Maurizio, secondo me anche tu hai notato la suite finale, eccolo lì, che subito ha colto. Bella, molto bella. Sì, sì, sì. Pezzo di un certo peso anche musicalmente. Dicevi, Giuliano, che non è stato semplice fare un pezzo simile. No, è un pezzo molto ambizioso. E, abbiamo tentato molte strade per arrangiarlo, per trovare la ritmica giusta, ma veramente ci siamo stati veramente tanto. E non trovavamo la chiave. Poi mi sono trovato ad ascoltare un bel pezzo di Madonna che è Live to Tell. Certo. E la chiave è nata da là. Sì, in qualche modo me l'ha ricordato, questo andamento semplice ma lento, a sì, passi giganti. Il ritmo che non riuscivamo a trovare, il ritmo giusto, no? La batteria giusta. Invece poi ascoltando quel pezzo, sì, che ha un andamento molto simile. Sì, sì, l'avete sviluppato. Cioè, mi dicevi che il testo l'ha scritto te, però le musiche sono scritte da tutti e tre praticamente, in una questione di gruppo, sì, sì, musicalmente parlando. Si parte sempre da un'idea, da un giro di basso. Che idea aveva questo qua? Che giro era praticamente? Questo nasce da un giro di chitarra mio. Che solitamente suono il basso, però ogni tanto mi diretto anche a strimpellare altri strumenti. E così hai strimpellato un giro praticamente? Strimpellato un giro di chitarra e poi subito mi è venuto in mente un basso da mettere sopra. Dopodiché pensavo che fosse bello, l'ho dato a Giuliano. Sì, sì, poi il giro di chitarra è è sparito. È sparito. Ah, perché funziona così, magari servono solo per dare il là, l'input. Esattamente, sì. C'è successo anche su altri pezzi, certo, questa cosa, ma va bene così, insomma. E poi dopo ci si mette lì insieme, si fa un lavoro proprio di artigianato. Certo, Sergio, un pezzo molto d'atmosfera e ancorato in un punto focale del disco praticamente. A metà. Dopo la metà. Poco dopo la metà, e questo è fondamentale. Molti, le scalette sono buttate così, non è vero che sono buttate così, sono buttate in una certa maniera. Sì, sì, guarda, l'abbiamo pensato come un vecchio disco con il lato A e il lato B. Esatto. Abbiamo pensato come faremmo, come li metteremo se ci fosse ancora il lato A e il lato B, è così. E avete, come avete notato, giustamente qui Rock Wave, Sergio può testimoniare, non si prende niente, taglia niente, si taglia nulla, fino all'ultima goccia è andato, perché è giusto che sia così, alla grande, perché la gente deve sentire, lo sviluppo era così, la chiave di volta era così, il finale aveva una coda così, e così deve sentire. Esatto, poi se un pezzo del genere, se tagli la coda, veramente è appunto uno scempio, no? Ma è come se vai a una mostra di un pittore e ti fanno vedere solo un quarto del quadro, esatto, insomma, esatto. È lo stesso discorso. Se uno ha avuto avuto difficoltà per fare un pezzo simile, avete provato tante volte e siete riusciti a farlo in questa maniera, è giusto farlo sentire totalmente, se no sì. Poi tra l'altro la coda è stata pure quella un bel parto. Mai è stato un bel parto? Perché pensavamo a un pezzo di Depeche, perché comunque uno quando compone ha dei riferimenti, sì, qualcosa che ti viene in mente, certo. Sì, dovremmo fare anche una coda con dei violini in crescendo, così. Allora ci siamo cimentati con la tastiera, abbiamo fatto una bozza vergognosa, veramente scandalosa, e abbiamo chiamato un nostro amico che è Mario Gentili, che salutiamo. Sì, sì, che ha suonato il violino, che è un bravissimo violinista, e che ha all'attivo un sacco di collaborazioni con tanti artisti italiani, anche stranieri, insomma, uno molto in gamba. Sì, ultimamente anche con la Mannoia è stato in tournée, quindi sta in tournée con la Mannoia, sì, insomma, uno bravo. E ci siamo, insomma, gli abbiamo dato questa traccia vergognandoci come ladri e no. e ce l'ha riportata invece come l'avete sentita. Bene, noi siamo stati soddisfattissimi. Sergio non aveva mai sentito il pezzo e subito l'ha subito captato. Sì, sì, io sono vizio. Quindi disco, sì. È già positivo, molto positivo. E una cosa da sottolineare, Sergio, che la produzione di questo disco è dei Velvet. Hai capito? Quindi un marchio di fabbrica non da poco. Del pop romano. Sì, esattamente. Sì. Come mai questo aggancio, Giuliano, con i Velvet? Perché ci conosciamo da anni. Io il mio primo gruppo l'ho avuto da batterista con il cantante di Velvet. Ah, ho capito. Ai tempi del liceo. E, vabbè, poi ci siamo persi di vista e ci siamo rincontrati recentemente per questa cosa. Andrea, cosa dici? Sì, che praticamente noi dovevamo produrre questo disco, gli abbiamo fatto sentire delle tracce a loro, gli sono piaciute, e così è andata in porto il disco. Questa è una cosa che non sa nessuno, ma loro non soffrono più lo stress e sono dei bravissimi produttori. Quindi fanno produzioni, hanno il loro studio, la loro etichetta. Sono riusciti a sono sistemati, sono incanalati, sono una vera indie band, come si dice, e molto più indie di tante band che si spacciano per tali. Ho capito, è una cosa positiva questa, che veramente fanno tutto da soli, cioè, è bello vederli tutti al lavoro, telefonate, il chitarrista che mixa, è tutto un movimento lì dentro, sì, è una factory vera e propria. Però interessante questo, cosa dici, Sergio, facciamoli suonare? Dal vivo, sì, certamente. Basta disco, dai. Ragazzi, quando volete. Va bene. Vi facciamo sentire la fabbrica. Ok. Tutto e non ho niente, sono saturo. proiettato in te. Sono te, tu sei me, entri nella mia mente. Elemento chiave di un sistema surreale. Questa felicità è un nemico, annichilisce la mente. Il prezzo di tutto, il valore di niente. Fabbricami un nuovo desiderio. Ne ho bisogno adesso per davvero. Sono in crisi d'astinenza e tu non lasciarmi senza. Dovremmo mettere gli applausi finti, nel senso, sì, esatto. L'effetto applausi. Esattamente. Bravi, bravi, bravi. Popmatica. Grazie. Su Blue Radio Veneto con Fabbrica, mi pare. Sì, la Fabbrica, sì. Che è il vostro singolo, praticamente. Sì, sì, è il singolo che è uscito a febbraio. A febbraio, esattamente. Tiratino al punto giusto. Sì, sì. Poi la versione del disco è molto più accattivante. Certo, questa l'avete proprio scheletrica, l'avete fatta. Sì. È chiaro, doveva essere così, un basso e una chitarra elettrica, però l'avete fatta bene lo stesso in ogni caso. Sempre con una certa grinta, mi pare giusto. La dimensione live è così, la dimensione acustica, chiaramente siete in due, sì. Quindi questa è la nostra dimensione, però secondo me è riuscita lo stesso, chiaramente. Grazie, grazie. Quindi la Fabbrica è il vostro singolo, ma mi avevate detto però, parlando sempre a microfoni spenti, che c'era un'altra prospettiva di altri singoli in corso del disco. Sì, sì, abbiamo dei pezzi molto più acchiapponi, come si dice. E com'è stata l'idea? È stata la produttrice, il produttore che ha deciso così? Sì, sì, il nostro ufficio stampa ha dei canali molto più underground, per cui ha pensato ci vuole un pezzo in linea e penso che questo sia... Sì, adatto praticamente, sì, sì. Esattamente. Per i prossimi non è detto che ci giochiamo altre carte. Chiaramente c'è libertà in ogni caso, però, sì, di scelta. Certo, certo. Assolutamente. No, abbiamo concordato insieme comunque, quindi certo, certo. È anche colpa nostra. cosa dici, Sergio, che colpa loro hanno detto? Hanno scelto un singolo trainante in ogni caso. Molto, molto, sì, sì, sì, sì. Quindi andava ottimamente. E sì, io voglio sapere per una cosa, l'idea del singolo come è nata? Scheletrico, cioè proprio di base. Come avevate parlato prima di Assuefazione, che era un pezzo splendido. No, senza pensare al singolo, nel senso... Ah, esattamente. Sì, sì, no, beh, quando fai un pezzo non è che pensi al singolo. No, ma le note, non so, un giro di cosa. Ah, sempre da un giro geniale del di Andrea. Bassista, sì, ah, sì, sempre sì. Con la chitarra. No, era proprio col basso. Un basso. Okay. Sì. All'inizio però era leggermente più reggae, poi ho detto no, però così. E io posso dirti una cosa, qualcosa di reggae qua, mentre lo suonavi, aveva, secondo me. C'era qualcosina di reggae. Poi, chiaramente, nell'insieme del pezzo è un po' sparito. Sì, però beh, il reggae fa parte un po' del nostro background. Del tuo DNA, praticamente. Non solo del mio. Anche di Giuliano. Anche di Giuliano. Anche del batterista. Diciamo che è tutta colpa sua qui, perché lui mi ha influenzato molto. No? Noi, quando abbiamo iniziato a suonare assieme, suonavamo molto reggae. E i Police vi hanno reggae influenzato. Reggae, rock, allora. Rock e reggae. Lui ascoltava solo Eros Ramazzotti. Ah, capito. Vabbè, è romano per questo. Insomma, attenzione, poi tra la mia prima batteria, il mio primo catorcio, l'ho comprato dal cugino di Eros Ramazzotti. Ah, però vedi che c'è un collegamento a tutto. Il tuo primo catorcio, insomma. Suonava il cugino di Eros, allora, praticamente. Sì. E poi quella batteria gli aveva regalata Eros. Ah, almeno così mi hanno detto, ma non so se è una, come si dice, una calla. Sì. Che... No, io ci ho anche suonato con lui un periodo, quindi confermo. Con il cugino. Con il cugino. Sì, esatto. Quello che fa la musica seria. È quello più famoso, invece. Invece il discorso di Vasco. No, dai. E niente, quindi quando è nato questo brano è nato con un'intenzione più reggae, che però poi ci siamo un po' subito fermati ma e abbiamo preso un'altra strada senza stravolgere troppo quella che era l'idea iniziale. Ma l'intenzione di reggae non poteva essere leggermente ampliata nel pezzo, oppure così avete sbarrato immediatamente l'idea? Ma non è che abbiamo detto attenzione, qui c'è il reggae, semplicemente andiamo molto a istinto. Ho capito. Per cui... sì, magari arriva lui e mi dice: senti, però bello, molto bello, interessante, però proviamo a fare così. E io di solito assecondo molto le idee degli altri, anche lui, insomma, perché ci piace comunque vedere cosa c'è oltre, no? E Maurizio cosa dice, il batterista? E Maurizio poi ci mette del suo. Ah, ci mette del suo, chiaramente. Lui dove può giocare con i tamburi, va sempre contento. Va a nozze, praticamente. Sì, ti dice sempre ok. Considera che molto spesso facciamo delle sessioni proprio di basso e batteria, proprio solo di ritmica, per provare delle cose, insomma, escono fuori cose interessanti. Ma la batteria inconscia di Giuliano viene fuori qualche volta oppure no? Quasi sempre. Ah, quasi sempre. Sono l'ossessione di Maurizio. Ci mette lo zampino. Lo zampone. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, ci sono un paio di brani dove io sono la batteria. Ah, ok. Sì. Nel disco, praticamente. Tanto per non perdere il vizio. Benissimo. Cosa dici, Sergio? Mettiamo un altro pezzo dal disco? Cosa sei? Possiamo anche mettere farlo. Un altro pezzo dal disco. Bene. Tu hai scelto la traccia numero 7, meglio sbagliare. Esattamente. Poi ne parliamo, ok? Rock Wave, l'onda del rock. Wave, l'onda del rock. Siamo in compagnia questa sera su Blu Radio Veneto all'interno di Rock Wave, la versione live del mercoledì, anche se un po' in tutte le sere ormai ci sono live e interviste, però quella classica, quella bella, il clou, raggiungiamo il mercoledì, 2 ore dalle 10 a mezzanotte. Musica dal vivo dai nostri studi. Abbiamo sentito, dicevo, dei Popmatica, la traccia numero 8, sì. Sì, sì, sì, sì, a sua fazione. Sì. No, meglio sbagliare. Meglio traccia sbagliare, numero 7. Numero 7, sì. Numero 7, meglio sbagliare. Dicevo ai ragazzi mentre il microfono era spento che era un pezzo di movimento, cioè fa muovere la gente. Un pezzo circolare che avanzava sempre di più, con un suono ipnotico, possiamo dire così, che dava proprio questa sensazione. Sì, sì, con la cassa dritta. Ecco, la cassa dritta, esatto. Maurizio, e... sa, Maurizio e Giuliano. No, Maurizio. Maurizio, facciamo solo Maurizio. La cassa, era l'idea originale era già comunque questa tendenza. In più ci hanno messo lo zampino i Velvet che da quando hanno pompato leggermente il discorso. Da quando loro hanno cominciato a collaborare con Casa Sonica. Esatto, hai detto una cosa giusta. C'è un collegamento con Casa Sonica e Subsonica, con Casa Sonica soprattutto. C'è questo continuo pompare sulla batteria. È qualcosa di. Hai detto una cosa perfetta. È proprio centrato all'obiettivo. Quindi giusto? È anche colpa di Casa Sonica in maniera trasversale che c'è questo riferimento, questo suono praticamente. Però abbiamo detto che è un pezzo di movimento, un pezzo che dà un certo slancio, possiamo dire questo. E l'ideazione di questo pezzo è andata sempre con un giro di chitarra di Andrea oppure con un giro di basso sempre. Sempre un giro di basso. Sì, Andrea indovina tutte, me l'ho pure dimenticato. Ah, sei pure dimenticato. Non lo ricordo io, che io ho un problema che non ricordo le cose. Ah, sì, sì, infatti non mi prende in giro in continuazione. Ah, perché Giuliano le capta invece anche Maurizio, sì, tutte le ricordi. Ha una memoria come un pesce, no? Ah, ho capito. Per cui si dimentica subito. Io delle volte lo prendo in giro, gli racconto una cosa, poi quando mi accorgo che se l'è dimenticata gliela riracconto, lui mi fa: "Ah, ma davvero?" E poi dopo gli dico: "Guarda, te l'ho già raccontata." Ho capito, ho capito. Quindi è nata così. E poi avete sviluppato il testo, l'ha scritto sempre te di questo, sì, sì. E poi l'avete sviluppata musicalmente, cioè il testo lo scrivi quasi sempre te, sempre, sì. Sempre. Ma il testo viene scritto prima della musica o viceversa? Viceversa. Ah, viceversa, cioè sì. Prima la musica, prima, poi il testo. Prima sì, lo spunto musicale, poi da quello il testo. Fai come Battisti, insomma, prima scriveva la musica, poi scriveva un testo. Magari. Vabbè, è sempre, il modo è sempre lo stesso, sì, poi sì. Chiaramente le dimensioni diverse. Ah, si sente, no? Perché io ho un problema con i microfoni. Adesso tanto ti avvicini bene, si sente molto bene. No, quindi il pezzo è nato così, un pezzo di movimento. Perché, a proposito di movimento, come li fate, li eseguite dal vivo, questi pezzi? Molto simili al disco. Sì, sì. Sempre in tre praticamente. Sempre in tre con l'ausilio di un computer che... ti dà certi effetti. Ma mi sembrava un po' filtrata la voce qua, è possibile a mio presunto parere. Sì, sì. Leggermente filtrata. Come? Come? bisognerebbe parlare col fonico. Sì, ad Alessandro Sgreccia. Che è il chitarrista, nonché fonico. Fonico del disco, praticamente. Sì, sì. Possiamo parlare anche di... Cioè, il chitarrista dei Velvet, fonico, certo. Insomma, dello studio. Ma, nel disco... avete suonato solo voi tre o c'erano, oltre al violinista, ci sono altri contributi? No, il disco l'abbiamo suonato noi tre e poi c'è il contributo di appunto Alessandro che ogni tanto si diletta con qualche arrangiamento soprattutto di loop, synth sì. Loop. Ah, si diletta bene. Si diletta bene. Diletta, anche se noi siamo andati in studio con delle idee anche abbastanza precise. Cioè, cosa vuol dire Andrea? Nel senso che anche noi ci dilettiamo con i synth, per cui capito. Molto spesso arrivavamo lì con delle idee già molto chiare, molto definite, anche a livello di suono, di sintetizzatore, e magari venivano enfatizzate e valorizzate da Alessandro. Ho capito, ma i Velvet, cioè Alessandro, vi ha dato totale libertà o ha smussato certe cose? Ma sempre di comune accordo. Di comune senso, accordo. Avrei questa idea, cosa ne pensate? Confrontiamoci. Ah, quindi c'è sempre stata perfetta coesione di intenti. Diciamo che all'inizio è un po' traumatico perché magari, ok, loro ti dicono: "Abbiamo questa idea, ve la facciamo sentire." Magari ti stravolgono il pezzo, no? Però bisogna fidarsi. Certo, se certo. Tu decidi di collaborare con un produttore di cui ti fidi, poi ti devi fidare effettivamente. Sì, il produttore deve essere sempre voi siete in tre. ma di solito è il quinto elemento quando sono in patto, tipo Beatles, George Martin, o produttore di Rolling, la stessa cosa. In questo caso Alessandro è stato il nostro quarto elemento. Esattamente, il quarto elemento è fondamentale, dall'idea, dall'appoggio. Fondamentale. E poi anche un ottimo apporto l'ha dato Pierluigi, il cantante, che insomma, a parte che partecipa su diverse backing vocals, si è divertito. Gli ha dato una mano anche materialmente, cioè si è divertito anche a fare dei cori, insomma. Bene, bene. No, mi volevo dire una cosa. Dimmi, Giuliano. Che spesso loro ci hanno dato quel suggerimento che ci ha fatto capire che si può ottenere di più da quando pensi di avere dato il massimo. Ok, cioè, c'è un'altra chiave di volta per andare oltre. Assolutamente, sì, questo è... In più di qualche occasione ci hanno dimostrato questa cosa e per questo li ringraziamo. Ci hanno dimostrato che il produttore serve, la figura del produttore è fondamentale. Esattamente. Ok, adesso sentiamo un pezzo dal vivo, chiaramente. Cosa suonate? Suoniamo Mai Come Te. Benissimo. Non come te, per carità, in generale. Non si offende. Non mi offendo, assolutamente. Quando volete. Sovrappeso. Giuro che non sarò mai come te. Mai e poi mai ti assomiglierò un po'. Sarà grazie alla mia strana autoironia che curiosa mi osserva da fuori. La sottile ironia che mi insegna la via anche quando mi perdo lontano. Mai e poi mai ti assomiglierò un po'. Sarà grazie alla mia strana autoironia che mi osserva curiosa. Mai e poi mai. Rock Wave, l'onda del rock. Popmatica su Blu Radio Veneto all'interno di Rock Wave in questo mercoledì sera. Maurizio, sì, dobbiamo dire di questo pezzo, a me è piaciuta molto. Fammi vedere un momento la Fender Telecaster, ah che bella, è un mito, e la Fender Jazz del sì, basso, un altro mito. Qui si aprono altri discorsi, due Fender, attenzione, che questo è un tarocco. Ah, un tarocco. No, attenzione, perché no, ci tengo a... È un bel tarocco. È un bel tarocco. Me la sono assemblata con le mie mani. È un bel suono, sai, si sì, sentiva. Sì. Fammi un assolo che avevi fatto prima. Vedi, non è mica un suono tarocco questo qua. No, ho comprato tutti i pezzi su internet, ma pezzi di qualità, eh. Bene. Poi me li sono montati. Poi il mentecatto che c'è in me mi ha fatto mettere questo logo. Fender. E il passo Fender di Andrea, sì, sì. Giuliano è veramente un pazzo furioso. Lui sì. Si autocostruisce gli strumenti. Bello, è un fumettista, un disegnatore, veramente un eclettico, creativo eclettico. Sì, a 360 gradi. E tu è tarocco anche tu, no? No, no, io sono un poveraccio, io mi devo comprare gli strumenti. Ragazzi, vi arrivano i complimenti da Jonathan, dei terzo binario, mitici Popmatica. Che sorpresa! Ciao Jonathan! Fa gli auguri, vabbè, i complimenti. Grazie. Anche a noi. Qui c'è una storia di condivisione di qualche anno fa. Sì, sì, perché tra l'altro abbiamo lasciato in sospeso il discorso perché loro erano, anche loro erano prodotti da Vasco, da Guido Elmi, che era il produttore. Da Guido Elmi, sì, che era il produttore. Quindi partecipammo ad un concerto che facemmo insieme all'Auditorium di Roma. E fu un evento molto bello, insomma. Poi loro sono delle persone eccezionali e sono di Mantova loro, no? Sì. Quindi esatto. Sono dei grandi. Tra l'altro ci salvarono la serata con l'uso del loro sequenza. Sì, ci prepararono per noi le nostre sequenze. E all'epoca dell'EP vostro, il primo EP, questa cosa? No, all'epoca dell'altro gruppo. No, dell'altro della gruppo. Vecchia band. Ma che quello eravamo. Che poi è finito e è nato... È nato il vostro gruppo nuovo, sì, sì. Praticamente. Facciamo un po' di pubblicità ai Terzo Binario? Perché no? Assolutamente. Sì. Sì, sì, comprate il loro disco che si intitola La prima volta, potrei sbagliare, non mi ricordo bene, La prima volta? Non lo so. E vabbè, tanto pubblicità gratuita. Sì, sì. Già tanto che... No, vabbè, dai. Vi arrivano anche i complimenti da un'altra persona che non si firma, 969 finale, fantastici questi Popmatica, bravi e simpatici. Concordo. Grazie. Sì, sì, sì, sì, sì. Bene, abbiamo parlato, ricordiamo anche il numero, certo. 346 2320 33 per eventuali sms in diretta. Avete suonato Da Dio Mai Come Te, che secondo me, io ho sentito il disco chiaramente, aveva anche questa una grossa propensione al singolo, nel senso positivo del termine, come impostazione, già al primo pezzo, al primo acchito, la prima traccia, già ti dava una certa espressione, un certo modo di suonare. E chissà che non uscirà magari prossimamente come secondo singolo. Per me, io ne abbiamo citati di altri, però questo già all'inizio, essendo la prima traccia, ero convinto che fosse il singolo questo, la prima traccia. Sì. Dopo avete scelto La fabbrica e un altro paio di mani, cioè avete deciso questo. Perché non bisogna giocarsi subito gli assi nella manica, capito? Questo è vero, questo è vero. Bisogna calibrare le cose, esattamente. Sì, se non voglio fare paragoni, se pensiamo a Caparezza, che dopo 2 anni che era uscito il disco, poi ha fatto il botto con Fuori dal tunnel. Esattamente. Grande Caparezza. Adesso sta facendo successo incredibile, sì, tutto sì, esaurito, sì, sì. Noi lo amiamo. L'effetto suo è incredibile, veramente. Ok, adesso sono le 22:59. Sergio lo sa, lo sapete anche voi. Di regola doveva essere segreto, ma sono stato bravo e gentile, ve l'ho detto precedentemente. Adesso c'è il nostro giochetto. Ma tanto l'avevo già sentito nei corridoi, quindi se non sono pronti, c'è sempre il loro CD. Ecco, esattamente. Beh, siete pronti in ogni caso. Ok. E il giochetto da i soliti dischi da portare su un'isola deserta. Adesso siete solo in 2, potremmo arrivare a 5, facciamo 4, così una cosa un po' meno pesante. Chi vuole cominciare può cominciare. Prego, lascio cominciare il bassista. Ad Andrea, dai, bassista. Allora, io sicuramente porterei The Dark Side of the Moon. Come mai, Andrea, The Dark Side of the Perché Moon? Perché è un disco che ho consumato quando ho iniziato a suonare, insomma, che ero un giovane... Sei giovane ancora adesso, chiaramente. E ho iniziato praticamente ascoltando molto i Pink Floyd, anche a cercare di rifare quelle cose che faceva Roger Waters. Quei giri, che lui è un bassista, chiaramente. E poi è un disco che ha delle sonorità incredibili, ogni volta è un viaggio. Certo, certo. E poi sicuramente un disco dei Police, perché anche loro mi hanno influenzato moltissimo, anche loro... sono stati consumati. Ma quale dei Police? Dei quattro? Qui è una bella lotta. Probabilmente Regatta de Blanc. Ah, Regatta de Blanc. Okay. Regatta de Blanc, perché che è il disco più reggae secondo me della band, non so se siete d'accordo. Sì, è un disco sul quale ho suonato tante volte, ogni volta è una scoperta, perché poi ogni volta che lo riascolto, che ci risuono sopra, trovo delle sfumature, delle cose che dico porca miseria, questa me l'ha sfuggita. Ho capito. È incredibile, guarda, bellissimo. E poi siamo solo al secondo. Sfumature e anche magagne. Magari, la cosa che ci piace dei vecchi dischi di Police è che ci sono delle piccole stecche. Cioè, in che senso, Giuliano? Delle piccole imperfezioni che al giorno d'oggi verrebbero subito corrette in fase di editing. Col computer, eccetera. Sì. Mentre loro se ne fregavano... Volutamente. Sì, ci sono proprio delle stecche di Sting o di... A volte di Sting, a volte di Andy Summers. Signor stecche, però, non sono le stecche quelle... Le stecche di un certo tipo. Che poi caratterizzano, no? Diventano pure caratteristiche. Cioè, ad esempio, all'inizio di Roxanne si sente un accordo di piano e una risata. Sembra quindi apposta. Quindi... In realtà era successo che Sting ha perso l'equilibrio, è andato col culo sul pianoforte e si mise a ridere. Però è rimasto, capito? Bello. È bello, sì, bello. È rimasto così, non hanno cambiato. Lo faceva anche Dylan, spesso volentieri le stecche volute, e la lasciava così perché Dylan era Dylan e gli Sting, cioè Sting era Sting e siamo sempre là. Quindi quarto e il terzo, scusami Andrea. Allora, il terzo c'è chi dice no di Vasco, perché è un disco che mi regalò mio fratello quando avevo 13 anni e mi ha aperto un mondo. E poi il quarto disco... Come mai? Che periodo era di Vasco, ti ricordi l'anno? Era proprio l'anno in cui era uscito, era l'87, mi ricordo che ero in una colonia estiva, stavo trascorrendo le vacanze lì e mi venne a trovare mio fratello che è più grande di me e mi portò questo disco... Mm-hmm. E io all'inizio dissi, ma che te sei comprato? Che mi hai portato il disco di sto drogato? E poi in realtà invece sono diventato un fan sfegatato all'epoca. Poi vabbè, piano piano cresce, insomma, i gusti evolvono, però è rimasto un po' nel cuore. È stata una pietra miliare per te. Che oggi lo ascoltavamo in macchina mentre venivamo qua. È incredibile che in Italia all'epoca si sia fatto un disco così. Mi domando perché perché è finita questa, buono, non lo so. Beh, c'è sempre Guido Elmi che manovrava il tutto. Lì Guido ci ha messo la mano lavoro, di tutto. Tra l'altro è il suo disco al quale è più affezionato. Più affezionato, esatto. Tu immagina però che emozione poi ritrovarsi dopo tanti anni a lavorare con Guido Elmi, quando io lo leggevo all'epoca sui dischi di Vasco. Esatto. Pazzesco, no? E poi siamo al terzo disco. Sì, questo è il quarto, devi dire. Il quarto. Beh, diciamo che recentemente, qualche anno fa, ho scoperto Max Gazzè. Che è romano anche lui. È romano, è un grandissimo musicista. È un grandissimo bassista. È un grandissimo bassista. Anche rinominato lo Sting della Garbatella. Esatto. Questo non lo sapevo. È una nostra amica. Ma lui ha suonato. Una volta l'ha chiamato così. Insomma, lo Sting della Garbatella. Sì. Ma lui ha suonato parecchio all'estero, anche in Belgio mi pare aveva... Sì, lui ha un background di tutto rispetto, bravo, indubbiamente bravo, che sa fare le cose. Anche lui ha l'influenza Police, tra l'altro lui aveva una cover band di Police, si chiamavano i Police, ma scritto proprio Police, come si pronuncia? Ed erano molto bravi. E di Max cosa preferisci? Allora, c'è il terzo disco che secondo me è quello più azzeccato, mio modesto parere ovviamente, ed è La favola di Adamo ed Eva. Ed hai perfettamente ragione, è un disco bellissimo, un disco che ha cominciato a far conoscere Max in giro, però è un disco molto valido, molto bello, belli testi, belle le musiche, gli arrangiamenti, secondo me. Poi il modo particolare di cantare lui, assolutamente, i testi sono molto particolari, tutti, non dico a rime baciate, ma quasi, si intersecano, e ha un modo particolare di cantare e di suonare, è unico secondo me, come suona il basso. Di là della Garbatella, di là che sia così. Tu cosa dici, Sergio, di Max Gazzè? Sei contento? Sei soddisfatto? Cioè, è un bravo musicista Max Gazzè. Validissimo. Molto bravo, sì. Poi ce ne stanno tantissimi, io porterei sull'isola deserta, però probabilmente dovendo fare una scelta, porterei sicuramente un disco degli U2, che sono un'altra band. Quale? Vabbè, uno su tutti sarà sputtanato, però ogni volta che lo sento mi fa viaggiare. The Joshua Tree. Perché? È un disco mitico? Vabbè, perché è un po' banale, scontato, no, come risposta, però è un sicuramente disco mitico. Ogni volta che lo risento pure quello mi fa viaggiare. Produzione simile. Si respira un'aria particolare. quando uno prodotto da Brian Eno e Daniela Noir, grazie. Ma poi quando un disco, di un certo livello, un disco ha un successo così grande, strepitoso, a distanza di anni, ha voglia di dire, però è banale, banale, significa che è un disco Sì, no, ma non è banale, cioè non dicevo che era banale il disco, no, banale, la risposta, banale, sì, risposta. Infatti intendevo quello, lui sta a cercare il disco più strano. No, infatti. No, capito? No, è un grande disco in ogni caso. Piano di capolavori, no. Ma più che altro quello che mi piace molto è l'aria che si respira su quel disco, ed è veramente difficile fare un disco in cui si respira un'aria così. E tutti i pezzi bellissimi, sì. Incredibile. Tocca a te, Giuliano. Io rischio di dire. No, le regole fondamentali di questo giochetto. Sono stato fortunato. Non si può copiare, Giuliano, assolutamente. Ah, è quindi, vietato. Quindi, sottinteso che porterei i dischi che ha nominato Andrea, sicuramente X ed Y di Coldplay. Ah, però come mai hai scelto Coldplay? Perché è un disco che ha atmosfere molto new wave, sì, certo. Mi hanno colpito e l'ho consumato come non mi succedeva da anni, perché adesso c'è una fruizione molto più veloce. Sì, esattamente, si fa presto. E invece mi è capitata una cosa che non mi succedeva da anni, ovvero ascoltare per periodi lunghissimi lo stesso disco. Ho capito. E quindi. E cosa ne pensi del nuovo singolo, del disco che verrà fuori fra poco? Il nuovo singolo non l'ho ancora ascoltato. Non è mica male, interessante. E il disco verrà fuori, dovrebbe uscire adesso anche il nuovo disco di Coldplay. Tutti lo stanno aspettando, lo sai il discorso della EMI, no? Due anni fa, quando hanno fatto il disco precedente, lei mi aspettava, per non chiudere le fabbriche, il disco dei Coldplay per sanare il bilancio. È stato fatto, è stato il disco, quando è uscito il precedente, il disco più venduto nel mondo in quell'anno. Quindi insomma, non lo sapevamo, è una cosa che più venduto nel mondo, quindi non è mica. È prodotto da chi? Da Brian Eno, chiaramente, c'è sempre lui dietro. Remida. È Remida, è bravo Brian Eno, è molto bravo a toccare le cose giuste, anche se non è semplice la musica fatta da Brian Eno, arrangiata da Brian Eno, prodotta da Brian Eno, però è un genio, tipicamente, c'è poco da fare. Ok, secondo disco, Giuliano? Sicuramente un disco dei Beatles. No? Beh, quello non poteva mancare. Non si può andare. T'ho fregato, Andrea. Da fra i 14. Sta rosicando perché no. Vedi, è difficile. Ti hai dimenticato. 5 sono troppo pochi, però. Quanti fra i 14 cosa li scegli? Magical Mystery Tour. Che è un disco un po' particolare, che è al di fuori della discografia normale, è dentro la discografia, però un po' particolare. Sì. A parte di loro preferisco il periodo quello un po' più, tra virgolette, acido. Ah, ok. Mi piace tutto, però in particolare quel periodo. Qualsiasi disco di quel periodo mi va bene, non ho preso uno a caso. Sì, certo, chiaramente. Magical Mystery Tour, sì. Bello, bello. Poi il terzo? Il terzo... dunque... me l'ero preparato, l'hai preparato, adesso ti sei dimenticato. Sicuramente un disco dei Police. Un disco di Police. Che non era Ragazza del Blanc, che ha preso Andrea. Synchronicity. Che bello, è l'ultimo praticamente, l'ultimo grande successo mondiale per via di singoli azzeccatissimi. Sì, sì. Il disco, tutti dicono che era un disco di Sting, però non dei Police. Cosa dici, Giuliano? Ma se ragioniamo in questa maniera, anche gli altri dischi... Un po' meno gli altri dischi, secondo me. Quello ultimo era proprio un disco di Sting. E se tu senti, almeno secondo me, dopo posso sbagliarmi chiaramente, senti il primo disco solista di Sting, non è tanto distante da certe atmosfere di Synchronicity. Lui ci metteva molto del suo, perché arrivava in studio col quattro piste, con già l'idea di batteria. Aveva già predisposto tutto. Basso e chitarra, e spesso le loro discussioni, i litigi erano proprio su... Sì, perché lui voleva prevaricare praticamente. Sì, e quindi trovavano dei compromessi, o delle volte gli dicevano sì, facciamo così, e poi stravolgevano... Il discorso... Ma è sempre stato... Ma è sempre stato una persona di questo... Cioè, sì, musicalmente parlando, cioè era... Non dico che sia stato il più bravo, era il più forte su certe cose, prevaricava nel senso musicale, come Joe Anderson di Jethro Tull. Quanti ne ha fatti fuori? Tanti, sì. Ne ha fatti fuori tanti, è rimasto uno solo, sì, dopo tanti anni. Infatti, ha fatti fuori se mi domandi com'è la formazione di Jethro Tull, che saprei dire. Rimane Anderson sempre uno e poi cambiano continuamente. E l'ultimo disco, però, dimmi. Questo non poteva accadere nei Police, attenzione. No, di Police no, questo è vero, erano tante teste importanti. Quelli sono gli incastri magici che accadono, certo, una volta, certo, ogni mille anni. Nei Jethro c'erano tanti bravi musicisti, però non avevano la forza probabilmente di Joe Anderson. C'era uno solo, è rimasto per tanti anni, sì. Poi gli altri bene o male sono stati cambiati. Poi c'era la famosa leggenda che quando sono arrivati i Gentle Giant, ti ricordi i Gentle Giant? Sì. e c'era un concerto da Gentle Giant e Jethro Tull. Jethro Tull erano chiaramente la band più importante, i Gentle Giant facevano da spalla, da supporto, da apertura. È successo che Gentle Giant ebbe un successo strepitoso. Allora, cosa ha fatto Ian Anderson? Li ha mandati via. Quella è la storia, questa. Li ha mandati via, erano troppo bravi rispetto a loro. La storia è così. Vabbè. L'ultimo disco per te, Giuliano? L'ultimo disco, Live Killers dei Queen. Ah, cosa dici di questa scelta, Live Killers dei Queen? Dimmi qualche titolo. Che no, è un tua... disco live. Disco da vivo. Penso uno dei più bei live. Disco dal vivo. Dei Queen. Proprio. Come mai sì. Un disco dal vivo dei Queen e non un disco da studio, Giuliano? Perché lì c'è l'essenza proprio della band. Molte canzoni molto elaborate nel disco lì si sentono molto più crude ma complete. Ho capito, e quindi danno molta energia praticamente. Sì, è veramente un bel disco. E poi una cosa importante, non bisogna dimenticare il lettore CD. Ah, beh, sull'isola deserta con la batteria può andare sempre avanti. Ok, 23:12, abbiamo praticamente fatto un escurso sulle vostre caratteristiche. Allora, però... io vi ho lasciato chiacchierare tranquillamente. Intanto sono arrivati anche i complimenti dal vostro ufficio stampa. Ah, ciao Antonella, ci vediamo dopo. E adesso Maurizio, che facciamo? Dunque, facciamo che abbiamo quanti pezzi abbiamo ancora da disco? Altri due? Due. Allora, ne sentiamo uno, dai. Andiamo a sentire la traccia numero 8 in piena assenza di rumore. Rock Wave, l'onda del rock. Giorno improbabile ti infrange addosso come un'onda, non mi travolgi, è questo che conta. Attimi liquidi, minuti scorrono lenti, modelli quando un'opera è incompleta. Dovrei parlare. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rockwave, l'onda del rock. 23:18 minuti, sempre Blu Radio Veneto, sempre Rockwave, la versione live del mercoledì, questa sera con i Popmatica dalla capitale. Maurizio. Sì, mi permette. Tracce lunghe, se molto posso. Tracce lunghe, sì. Non tagliate come sempre qui alla nostra consuetudine. Poi parliamo un momento di questa coda perché mi interessa. Sì, sì. Ma mi permettete un secondo di salutare tutte le nostre amiche rocchettare, che sono la Nicoletta, la Silvia e la Patrizia, che ci seguono sempre. Adesso parliamo di questa traccia lunga. Questo io l'ho definito, Sergio, vento siderale che finisce il pezzo. Me ne parli, Giuliano, e dopo Andrea, chiaramente. Sì, questo vento siderale è un momento che accompagna, che traghetta l'ascoltatore nel brano successivo, perché ci sono alcuni brani che secondo me non bisogna far finire subito, perché si rimarrebbe un po' un mal di stomaco. Si rimarrebbe con il mal di stomaco, quindi hanno delle atmosfere particolari per cui bisogna accompagnare l'ascoltatore al fade, alla sfumatura, fino al brano successivo. Ecco. Quindi... Ma questi incastri, questo è un pezzo pieno di incastri, secondo me. Già la voce che aveva delle particolarità, come è stata il fonico, oppure chi ha costruito questa dimensione? Questo vento siderale è nato per caso. Ma dimmi come allora, Giuliano. Eravamo in pausa caffè. Ah, bene. torniamo a studio, c'era Daniele, soprannominato Coffi, che è un tastierista. Che beve un sacco di caffè. Che beve, non lo so perché lo chiamano Coffi. Coffee shop, non indaghiamo. No. È un tastierista molto, anche lui lavora molto con i Tiro Mancino, con la scena romana, e si stava divertendo su questo pezzo a mandarlo al contrario e rallentato all'ennesima potenza, e l'effetto che sentite sono quelle cose sataniche che si facevano negli anni 70. Pensa che io questa cosa l'ho scoperta ora. Non lo sapevi? Perché quel giorno non c'ero. Io pensavo che questa qui fosse opera di Alessandro De Velvet. No, era Coffi che ma si divertiva così. E noi abbiamo detto: fermo un po', continua, bello. E abbiamo deciso di non buttarlo e metterlo come coda, appunto. Giusto, coda traghettatrice. Coda Caronte. Esatto, Sergio ha citato questi riferimenti. È incredibile come adesso qui si apre una riflessione filosofica. Adesso litighiamo. No, perché volevo raccontare di come abbiamo conosciuto questo Daniele Rossi. Rossi, no? Sì, Daniele Rossi. Che funzione ha Daniele Rossi, praticamente? Allora, lui è un tastierista che collabora ogni tanto nello studio dei Velvet, a qualche arrangiamento, e collabora anche con loro dal vivo. Ho capito. Turnista, praticamente. Sì, e noi conoscemmo Daniele tantissimi anni fa in vacanza in Corsica. Un posto sperdutissimo. Della Corsica. E da lì, insomma, nacque questa amicizia, così. Poi però ci siamo persi di vista per qualche anno e ci siamo rincontrati nello studio mentre facevamo il disco. Vedi? Un qualche legame karmico che esatto. Dobbiamo approfondire. E a proposito del discorso che faceva Sergio, del discorso un po' particolare, i Beatles nel periodo acido, spesso volentieri John Lennon, che era uno che piaceva giocare su ste robe, aveva più di una volta messo il nastro al contrario. Quindi una cosa che già parte dagli anni, fine anni 60 praticamente. E quindi è un discorso valido quello che ha fatto questo Alessandro, si chiama questo Daniele. Sì. Ma abbiamo anche messo un messaggio satanico, se magari. Quindi un pezzo molto articolato, interessante, sì, e dal vivo, come lo fai? Ci dicevi degli incastri. Sì, esatto, degli incastri, volevo sapere proprio questo. Cioè, c'era qualcosa che ti aveva colpito? Sì, mi aveva colpito questo intreccio, non dico di voci, ma di suoni, di rumori, volutamente intrecciati, che poi finivano con questa coda lunga, questa cosa lisergica, possiamo dire lisergica. Questo è uno di quei pezzi che in realtà, quando siamo arrivati in studio, aveva già una identità molto precisa. Poi l'unica cosa che è cambiata è stata un pochino la ritmica, perché Alessandro, insomma, ci sentiva una ritmica diversa. In effetti poi io mi sono messo lì al basso, ho stravolto un pochino la ritmica e quindi una specie di free, c'era libertà totale nel suonare questo pezzo, o c'erano determinati paletti da seguire? No, c'era una ritmica, ma loro ci hanno suggerito qualcosa per dargli un po' più di verve. Ho capito, quindi ci sono messi lì e abbiamo un po' elaborato il brano. Idee che si mettono insieme e poi si vede quelle che funzionano di più. Molto, anche aiuta molto il caso, perché uno pensa che è tutto molto studiato, in realtà è messo così, è da intuito praticamente. Sì, sì. Poi quando arriveremo magari a un altro pezzo, no, perché alcuni giri, per quanto mi riguarda, c'è stato soprattutto in un brano che ho partorito un giro lì per lì proprio mentre lo registravamo, dicevo vabbè, però qui ci vorrebbe track, mi sono messo lì e è venuto sto giro, no? E come e si a volte fa funziona a captare così immediatamente l'idea che viene fuori? C'è una particolarità, c'è un sistema? Ci vuole sicuramente qualcuno che dall'esterno ti dice aspetta, fermati, questo lo teniamo. Bisogna almeno essere in due. Ah, chiaro, chiaro. Ho capito. Benissimo, facciamoli suonare. Cosa voi dice? Conoscete un certo Maurizione? Come no? Vi acclama allo Stadio Olimpico. Lo conosciamo molto bene, è una persona molto vicina, perché si tratta del nostro batterista. E vi sta anche guardando, penso. Ah. Sì, un altro messaggio, sì. Eccolo qui, il suo vice. La sua testa è qui dentro. Ce la siamo portata dentro questa scocca di batteria elettronica. C'è la sua capoccia. Batteria elettronica anni 80. Infatti, come avete sentito, parte il ritmo ed è sempre uguale fino alla fine, perché non ha tutti i CCCP. Sì. Quelle opzioni. Batteria che all'epoca poi era usatissima. Questa è proprio una cosa vintage. Dell'epoca proprio. Dell'epoca. Originale, sono praticamente. Sì, ci hanno fatto i dischi in tantissimi con questa qui. Pesa 20 kg, pesa. È pesante, allora, decisamente. Beh, suoniamo 23-24, abbiamo tempo di suonare ancora qualcosa, sicuramente. Che cosa, ragazzi? L'estate per noi. È che è un pezzo molto bello che noi, tra parentesi, Sergio, abbiamo scelto come per un mese consecutivo come pezzo, secondo noi, da lancio, assieme ad Alberto Prisco, abbiamo scelto questo pezzo come lancio del disco. Un'altra carta che ci giocheremo. No, ma dobbiamo suonare bene perché c'è Maurizione che ci sta ascoltando. Ah, è vero, vero. Sennò poi ci picchia quando torniamo. Prego. Tagli che poi non ho letto Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccezionali, dico molto, solo questo, eccezionali, veramente. Decisamente un pezzo fatto benissimo, sì, loro sì, hanno sì. citato i Morfin Sergio, e la chitarra che suonava Giuliano, molto rumoristica, mi è consentita l'espressione un po' lisergica, e questo basso martellante, sì. potrebbe essere anche una... collegamento ideale con i Morfin. Morfin è un gruppo straordinario, purtroppo il leader se n'è andato in Italia, tra parentesi, sì, a Palestrina, è a Palestrina, esatto, vicino a Roma. È un gruppo molto molto interessante, veramente. Io vado matto per i suoni, i suoni, la chitarra molto elevata, diciamo. Sì, sì, sì, batteria elettronica ci sta benissimo, sì, sì. Continuano ad arrivare messaggi, Maurizione vi fa ancora i complimenti per i suoni, dice che escono molto bene dal live. Ma si sentiva il basso un po' scordato? Secondo me la chitarra. Non so. E poi Daniela, un forte abbraccio ai grandi Popmatica da chi li supporta con vagonate di pasta. ci vuole anche quello. Certo. Ciao Dani. E poi... vogliamo il bassista senza cappello perché è più bello, sempre Maurizio. Maurizione. Vabbè. Ma dici che ero scordato? Possiamo provare in diretta l'accordatura. Vai, vai, vai. Vai, vai. Questo è un La. No, no, va bene. Deve essere il pedale che si è scaricato la batteria, ma adesso l'ho tolto. Sì. Vabbè, dettagli tecnici. Ok, citiamo una cosa che non abbiamo citato, l'etichetta del disco. Giusto. E la produzione di Velvet, l'etichetta è sempre loro? No, no. L'etichetta è Teorema, che è un'etichetta che sta a Bologna, sì. che è una nostra cara conoscenza, che è Luciano Nicolini. Perfetto. Che è un personaggione di quelli proprio incredibili, un uomo stupendo, di un'umiltà fuori dal comune. Che salutiamo. Certamente, certamente. E che abbiamo conosciuto qualche anno fa durante quella collaborazione con Guido E. Guido era uno dei collaboratori stretti. Tra l'altro Luciano è uno dei fondatori della Fanoprint, insomma un personaggio veramente grosso. Notevole. E niente, è rimasta questa stima reciproca negli anni, per cui noi cercavamo un'etichetta, gli abbiamo fatto sentire le nostre cose, gli sono piaciute. Bene, avete inciso l'etichetta con lui, sì, praticamente sì, sì. il disco con lui. E visto che facciamo delle questioni di servizio, parliamo se ci sono i concerti prossimi che farete. Sì, allora, abbiamo suonato moltissimo durante l'inverno. Adesso siamo un attimino in sosta, più riposo. Che, no, non sosta mai. No, sosta mai. Chi si ferma è perduto. Certo. Siamo molto siamo un po' in giro in questi giorni per promuovere il disco. Per promuovere il disco, quindi abbiamo diverse interviste da qui fino a sabato, quindi insomma, 2-3 giorni di fuoco. Sì, sì, sì, abbiamo, domani ce ne abbiamo due, venerdì altre due, insomma siamo un pochino in giro tra Bologna, Modena, Parma, San Marino, insomma abbiamo diverse radio da fare. Bene. Però a caldo, Giuliano è molto caldo, è il clima. Quando sono venuti qua da Roma, Sergio, ho detto ma che caldo che qui a Padova, molto non è caldo qui a Padova, è caldo qua dentro, caldo qua dentro, ma anche a Padova, anche a Padova. Era molto l'umidità caldo. Padana mi rendo conto che è poco rock sventolarsi. E poi dobbiamo riuscire anche a fare il video in questo periodo. Su quale pezzo? Dobbiamo farcela. Faccio un appello, se c'è un regista esordiente bravo che vuole cimentarsi con noi, ci contatti. Con quale pezzo avete scelto? Ma intanto volevamo fare quello della fabbrica perché è il singolo, sì, e poi dopo vediamo, insomma. E poi sempre in questo periodo stiamo comunque buttando un occhio su nuove cose. Ah, nuove cose, avete nuove già cose. In cantiere qualcosa? Abbiamo già in cantiere qualcosa, ancora in stato embrionale, ma ci stiamo lavorando, ci abbiamo un sacco di idee. Però, anzi, siamo molto fomentati. Ho capito. Il disco è recente, quindi è uscito quest'anno, quindi sì, sì, beh, la promozione del disco continuerà ancora anche probabilmente quindi in autunno, in inverno. Quindi l'estate, discorso di di radio, eccetera. Ma ci saranno dei concerti in autunno anche? Concerti sì, in autunno sicuramente li riprendiamo a settembre, ottobre, con dei live un po' in giro. Quindi durante, cioè, prima, i primi mesi avete suonato dappertutto o quasi? Insomma. Sì, quest'anno abbiamo suonato dappertutto. Fino non ci siamo risparmiati. Non ci siamo risparmiati, ovunque. Abbiamo suonato davanti a due persone, è capitato veramente di suonare davanti a due persone e davanti a molte più persone. Molte più persone. E quindi tutto quello che viene lo prendiamo. Certo, è giusto così. Sì. Lo spirito è bisogna quello. Girare, girare, farsi le ossa, farsi conoscere, suonare il più possibile. Esatto. Che perché poi anche dalle serate più quelle che gli dai poco, sì. quelle che gli dai due lire, lo dico proprio alla romana. Alla romana, sì. Spesso da lì nascono altre cose, certo. Come c'è successo. C'è successo ultimamente, cui... una cosa tra l'altro importante, che abbiamo fatto una serata, ci hanno notato alcune persone di una radio che erano lì e ultimamente ci hanno fatto due interviste, una radio grossa a Roma. È importante questo. Hanno fatto un'intervista e poi dopo è andata bene, per cui ci hanno fatto di nuovo un'intervista con un live. Vedi, quindi suonare serve sempre. C'è poco Lalla vi chiede La Fabbrica. Che però abbiamo già fatto. Ma l'abbiamo già fatto. Però magari in chiusura Maurizio potremmo. È arrivata tardi. Sì. Da disco. Allora così facciamo sentire la differenza. Esatto. Sì, si può fare. In chiusura. Certamente. Sì. Dunque, sono le 23:35. Sergio, adesso abbiamo circa mezz'oretta. Mi pare che avete in scaletta un altro pezzo live. Possiamo farlo? Siete abbiamo d'accordo? Un paio di pezzi. Sì, ancora, facciamo un altro pezzo live intanto. Ricordo adesso. Che abbiamo anche la traccia 9. Sì, dopo. Esattamente. Okay. A questo facciamo punto. Una cover? Fate una cosa. Sì. Non era preparato? No. Vabbè. Questo è un pezzo che facciamo sempre dal vivo, che sentiamo molto nostro. Sì, il classico pezzo che uno direbbe avrei voluto scriverlo io, anche se non sono d'accordo su questa cosa. Ah, bene. C'ho la mia filosofia. Ok. Poi ne parliamo dopo. Certo, certo. Dobbiamo programmare il nostro batterista Maurizio. Ma è già programmato. È già a posto. Altrimenti qua abbiamo un altro Maurizio eventualmente. Sì. Di ben altro peso. Vai. Infatti non l'abbiamo programmato. Stoppa. Tutto live, signori e signori. Non c'è nessun problema. Hip Hop Matica su Blu Radio Veneto. Oh, SMS 346 23 20 033. Rockwave, l'onda del rock. Blu Radio Veneto, Rockwave Live del mercoledì, questa sera con i Popmatica da Roma. Maurizio, vi saluta e complimenti ovviamente da parte di Michela. Ah, grazie. Grazie, sì. Grazie. Allora, sveliamo l'arcano, che cover era per i nostri ascoltatori? Era Invisible Sun dei Police, contenuta nell'album Ghost in the Machine. Terza traccia 1982. Perfetto. E versione acida, lisergica al massimo, da parte nostra. Intanto bisogna dobbiamo chiedere scusa quando facciamo una cover del genere. Si dice scusa, poi se ne parla. Modestia. Non avete fatta molto, come ha detto giustamente Sergio, sincopata. Io aggiungo calco, acida, lisergica, a mio parere, con quel basso che martellava, e poi la tua Stratocaster. Riveduta e corretta. Telecaster riveduta e corretta, energica, come giusto sia. Avete rifatto i Police a vostro piacimento, giustamente. Sì, sì. Non si possono rifare. Rifare, nel senso, avete preso l'ispirazione, l'avete coverizzata a vostro. Come la sentite voi? È una cosa positiva, secondo me. Si è tolto il cappello, Andrea. Sì, cominciava a sudare. Ti ho notato e si è tolto il cappello. Accidenti. Tra l'altro è pure più bello così. Ma devo tenere ferme le idee, capito? per quel motivo là. Bene, è una cosa molto positiva questa cover. È difficile fare una cover di Police, al di là del vostro amore per i Police? È difficile per alcune cose, nel senso, intanto le tonalità. Ah. Andrea, continua a farmi cenno, e avvicinati al microfono. Perché quando ti avvicini si sente bello. Così. Intanto mi sento benissimo. Intanto la tonalità, per cui devi abbassarla, e abbassandola ti domandi: forse la stiamo snaturando troppo? E poi lo spirito proprio, che è difficile dal pezzo da prendere, da captare, insomma. Perché era un gruppo troppo particolare. Certo, indubbiamente. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, che siamo così pazzi che ogni tanto facciamo anche messaggi in abbato. Però lì un due secondi così, dai. Sì, sì. Dai, forza, dai. Lì poi serve il batterista, perché insomma. Altrimenti. Ma facciamo 2 secondi. Dai, 2 secondi, dai. Come la facevano loro nell'epoca d'oro. Sì. Benissimo. No, c'è un'intervista molto interessante di Sting dell'epoca, che diceva, no, dell'epoca attuale, insomma, sì. Che si riferiva all'epoca. Si riferiva all'epoca e raccontava che praticamente un loro concerto agli inizi durava. Un concerto di 10 brani durava 10 minuti perché Copeland raddoppiava tutte le velocità. Ma c'è un video in cui si vede Andy Summer rivolto al Copeland: troppo veloce stavano suonando in testa. Sì, si vede proprio too fast. Tra l'altro, Stuart Copeland ha il nostro CD. Ah, bene. Sì. L'abbiamo incontrato pochi giorni fa a Roma, che stava facendo una promozione di un libro che ha scritto. Un libro sui Police, insomma, su... No, il libro autobiografico. Autobiografico. Alla fine, però, sì. E niente, oltre a stringergli la mano, gli abbiamo regalato il disco. Sudata. L'avete rifilato il CD. Sì. Speriamo che l'abbia sentito. Almeno. Ma guarda, anche se non l'ha sentito, l'idea che in casa sua, da qualche parte, come sotto bicchiere, ci in sia cantina. Il nostro CD. Sì, un giorno o l'altro dovrà sentire, no? Quindi, insomma, si sa mai, Vabbè, però abbiamo detto, queste sono le tue influenze. E lui ha detto, grande. Sì, gli abbiamo detto, guarda, questo è un regalo per te, per la tua, insomma, ispirazione. Vedi di imparare a suonare. Bene. Ok, sono dimmi, c'è un altro messaggio. Sì, vai, Michela, che Michela. Dice il Popmatica alla conquista del Veneto. Grazie. Dice così: la conquista del mondo cominciando dal Veneto. Com'è la scena romana? A parte, vabbè, il Velvet, Tiro Mancino. Nel senso, sì, ma siamo, sotto bosco, siamo capitale. Veramente, siamo veramente tantissimi. Sì, sì, sì. L'unica è stare sempre in mezzo, cercare di fare capolino, farsi notare, ma... È difficile. La tua domanda era un po' vaga. Sì, ma era ampissima in effetti. Ma c'è spazio, si può fare, ci può stare dentro. Guarda, abbiamo visto che se cerchi trovi degli spazi. Ho capito. Perché... Però devi proprio... Devi fare così. Sì, cioè, sì, di lanternino, lente, di Sherlock Holmes. Vabbè, determinazione. Determinazione, perché esatto. Questo è fondamentale. Mm-hmm. Devi andare sempre avanti praticamente. Sempre, non mollare mai. Ok, ho capito. Ci sono alcuni locali che fanno suonare... Mm. No, tra gli altri c'è il Contestaccio che... Sì. L'ho sentito nominare quello. Effettivamente è un locale più importante per i gruppi emergenti. Fa suonare solo gruppi emergenti. Oh, se vedi. Fai più di una cover ti caccia via. Lellone. Lellone. E mi raccontava un ragazzo romano che è venuto 2-3 settimane fa. Lui era anche era il direttore del Folk Studio Giovani. È stato per 5 anni direttore del Folk Studio Giovani. Lui ha detto che al Folk Studio, se tu suonavi le cover, ti cacciavano via. Sì, sì. Ma c'è ancora della gente con sale in zucca? Esattamente. Che sennò... Era vietato assolutamente. Dovevi fare pezzi tuoi. Sì, e tra l'altro al Contestaccio, adesso facciamo pubblicità anche al Contestaccio. La particolarità è che fanno 2, 3, 4 band per sera. Ah. Penso che sia l'unico locale in Italia che faccia una cosa del genere. Interessante, come in Inghilterra, come negli altri paesi. A noi è capitato di suonare lì alle 3 di notte. Però se ti capita quel turno lì. C'è anche capitato di vedere i Subsonica lì dentro alle 3 di notte. Ah, bene. Qui fanno dei show segreti. Sì, sì. Ah, suonano anche loro, cioè per non farsi notare, cioè vanno là segretamente e suonano. E si divertono anche altri artisti come Turi Mancino, Daniele Silvestri fanno degli show segreti lì dentro. C'è spesso anche Giuliano di Negramaro che va lì, suona, si diverte. Come quello spirito deve essere così. Ritrovano la dimensione del club. Sì. Ho beccato Giuliano di Negramaro un paio di volte fare delle session insieme a Zampaglione. Dio Mancino. Sì, e ho scoperto che è un chitarrista fenomenale. Ah. Fa i pezzi di Jimi Hendrix in maniera impressionante. Sì, quando non suona con i Negramaro. Torniamo al discorso di prima. vabbè. Mi ha colpito molto sta cosa. Bene, sentiamo un pezzo dal disco, che è l'ultimo che abbiamo scelto, che si chiama... Passaggio per tornare. Scusate, non leggevo bene. Passaggio per tornare. Hai detto, Giuliano, che questo è un significativo per una certa via dovete percorrere. Ne parliamo dopo, lo sentiamo, sì, sì. Ok? I Popomatica Blu Radio Veneto, allora andiamo con la traccia numero 9. Rockway, l'onda del rock. Passioni tornare. Minuti alla mezzanotte, ancora con noi Popmatica. Sono venuti qui da Roma a trovarci all'interno di Rock Wave Live. Maurizio, se parliamo di questo pezzo, Giuliano ed Andrea, che hanno una coda caratteristica di tutti i vostri pezzi, spesso tanti pezzi c'è le code, ma questa è una coda proprio libera da qualsiasi orpello, proprio libera in tutti i sensi. Come mai così libera? Proprio anche come sonorità, proprio libera come sonorità. Tanti influssi, tante cose. C'è un inizio di musica elettronica, ma poi si dipana, si allarga, eccetera. Sì, ma non l'avevamo previsto. Ah, non l'avete previsto. Come al solito. Però questo brano ci piace molto perché penso che sarà la linea guida dei prossimi futuri cose che fate. Perché ci sono degli ingredienti che ci piacciono, come la ritmica movimentata. Poi a me da anni avevo la fissa di mischiare ritmiche jungle ad arrangiamenti rock. Certo, difatti sono mischiati qua dentro. Sì. E poi penso una caratteristica di questo brano che ci piace è proprio un incastro semplice dei tre strumenti, sì, no? Sì. Cioè senza troppo arrangiamento, alla fine se vai a vedere è un basso, chitarra e batteria. E la linea guida di tutto cosa è stata? Sempre il fonico che ha deciso così, oppure no, questo sempre noi. Ah, sempre voi. Questo è il brano, anzi, meno meno arrangiato dai Velvet, sì, praticamente. Sì. Allora, pure qui si apre una parentesi. Una parentesi. Io avevo un giretto di chitarra, due accordi, proprio una cosa semplice. L'ho data in pasta a Giuliano, è tornato con un brano completo pazzesco. Ok. E quindi poi io ho dovuto solo mettere un basso che funzionasse. E via, è andata così. Questo è un pezzo che, come spesso capita nelle band quando suonano dal vivo, non potrebbe finire mai, potrebbe continuare per tutto, non dico per tutto il concerto, ma per 10 minuti buoni, insomma, sì, infatti, come si usava una volta. È forse il pezzo in cui ci divertiamo di più, no? Sì, dal vivo ci divertiamo tantissimo. E poi c'è un altro ingrediente che qui è venuta fuori un po' di, come dire, un po' di pazzia. Pazzia ragionata, possiamo sì, dire, sì. Dai. È un po' di nonsense, sì. È una cosa che ci diverte molto e che cercheremo di sviluppare nelle prossime puntate, come si dice, nelle trasmissioni di un certo livello. E poi, questo è stato l'ultimo brano scritto, pensato proprio del disco, quindi proprio l'ultimo. Ah, l'ultimo, quindi. Infatti è l'ultimo del disco e anche l'ultimo pensato, chiaramente. Non è un caso, è volutamente fatto così probabilmente. Ok, adesso sono le 23:57, abbiamo deciso noi della redazione qui, io e Sergio, praticamente di sorpassare la mezzanotte e andare un po' più avanti, qualche alla altro grande minuto, e quindi adesso facciamo quel pezzo importante con cui avete suonato dal disco con una ragazza, praticamente una cantautrice di un certo livello. Chi è questa cantautrice? È Diana Teixeira. Che è Diana Teixeira. Sì, sì, che è una nostra carissima amica che stimiamo tantissimo, tanto è che gli abbiamo chiesto di registrarci la voce, di mettere la sua voce sul nostro, sul brano. Sul insomma. Brano praticamente. Sì, e lei è stata carina, ha sentito il pezzo, ha accettato subito e siamo andati a casa sua un giorno con la base, il pezzo, gli abbiamo fatto cantare. Abbiamo dato carta bianca, e via. Ha fatto una coda con dei cori pazzeschi, insomma... Molto validi, molto bravi. Ha valorizzato proprio il pezzo. Che purtroppo non potrete sentire questa sera. No, perché adesso facciamo dal vivo, purtroppo siete... non c'è la voce femminile, ma va bene lo stesso, dai. La faremo in versione scarna. Perfetto, perfetto. Questa volta abbiamo programmato la batteria. Sì, l'hai programmato. Spero di sì. Perché sennò Maurizio dopo protesta. Vado? Vai, vai. Vai. Abbiamo passato la mezzanotte, siamo quasi agli sgoccioli di Rock Wave Live di questo mercoledì, ormai giovedì 7 luglio 2011, con Sergio Bortolami qui in regia e Maurizio Calzavara dall'altra parte del vetro. E con noi ospiti questa sera i Popmatica. Maurizio. Sì, vorrei proporvi questo. Siccome una nostra ascoltatrice vi ha mandato il messaggio, voleva sentire da disco La Fabbrica, mi pare. Sì. E quindi potremmo far questo, sentire da disco La Fabbrica e poi finire con un bel live, un pezzo live a vostro piacimento. Cosa dite? Siete d'accordo? Cosa avevate in scaletta? Avevamo finito. Avevate finito? Io pensavo, beh, ci hai colto di sorpresa. Io pensavo che fosse nell'aereo qualcosa da dare, ma ci potete pensare tre minuti, no? Con La Fabbrica. Vediamo. Certo, ci pensiamo. Facciamo sentire La Fabbrica e poi vedremo cosa possiamo fare per salutare anche la gente. Di solito noi salutiamo con live, ma voi siete bravi, riuscirete sicuramente a tirare fuori qualcosina. Ok, sentiamo La Fabbrica allora, che pezzo numero, traccia numero 2, mi pare. Eccola qui. Grazie. Approssimato per difetto, farò solo scelte giuste, sarò felice per niente. È provato statisticamente. Fabbricami un nuovo desiderio. Sarò in crisi d'astinenza, non lasciarmi senza. Blu Radio Veneto. Rockwave, l'onda del rock. Maurizio. Sì, velocissimamente, Andrea, io ho sentito una cosa molto interessante in questo pezzo. Sì. Il basso solista, che non succede spesso e volentieri. 30 secondi per spiegare perché il basso solista. Sì, niente, ci sentivamo l'esigenza di mettere un qualcosa di diverso, di insolito. Così a me mi è venuta in mente questa linea abbastanza cantabile, sì, di basso. Di basso. Per cui l'abbiamo semplicemente registrata, è venuta bene, ci piaceva, non ce ne frega niente se... se adesso c'è la tendenza a non fare, più queste cose, perché oddio, ma che fai, una solo di basso? Sì. Anzi, io suggerirei di farne un coro da stadio, tipo beh, romperemo... È un po' tipo po, po, po, po, po, po, po. È la stessa cosa, sì, capito? È vero. Uguale. Uguale. Vabbè, una cosa del genere. È proprio così. Ok, adesso facciamo le cosiddette notizie di proprio da tecniche. Sì, e io volevo ricordare Antonella, insomma ringraziarla perché ha permesso insomma questa intervista, ci ha organizzato tutto questo giro che stiamo facendo in questi giorni. Volevo ringraziare Luciano di Teorema, volevo ricordare agli ascoltatori che il nostro disco lo possono acquistare sul nostro sito www.popmatica.it oppure anche tramite Bill Digital, sì, iTunes, oppure iTunes, Amazon, eccetera eccetera. Acquistatecelo, acquistatelo perché costa poco e ci date una mano. Posso che fare per noi... uno slogan? Aiutateci a diventare ricchi. E acquistatelo in digitale, oppure se volete la copia fisica, che è, ovviamente è sempre una cosa più bella perché sì, c'è il CD con il libretto, le foto, i testi, eccetera eccetera, ce la può richiedere direttamente sul nostro sito, gliela spediamo noi direttamente, quindi non ci sono intermediari. E vanno con 12 euro vanno ad esaudire il loro desiderio più grande, quello di comprare il nostro disco. Più altri 100 di mancia. Il ricavato andrà in beneficenza a noi. 12 euro comprese le spedizioni, quindi veramente regalato, non ci sono scuse, basta quasi. Con questa storia che i dischi costano troppo, perché non è vero. Ecco, se vai a bere un mojito ti costa 8 euro a Roma. A Roma. So. Due in meno. Ok, anche Beethoven, quindi è pop. E abbiamo finito. Purtroppo abbiamo finito, sono le 12:10. Abbiamo già finito, mezzogiorno e 10. Mezzogiorno e 10, 24 e 11. Ci è volato proprio. Esattamente. Però abbiamo deciso, Sergio, prima di finire, un estratto da... Sì, noi almeno a me mi è rimasta un po' qui su l'estate per noi, perché avevo la chitarra scordata, vorrei almeno fare il ritornello. Accordato. Aspetta, stonando con la voce però. Perché... Poi ci sentiamo per la chiusura, no, per i saluti. Chiudiamo adesso. Allora, ti ricordi qualche live dei prossimi sì, giorni? Sì, domani oppure... ci sarà Susi Dal Gesso. Dal Gesso, pardon, che è una musicista nota in zona, sì, e non solo. Padovana, che è anche internazionalmente conosciuta, ha fatto parecchie cose, tra l'altro anche le sigle nostre. Quindi... No, infatti me la ricordo da parecchi anni fa. Sì, sì. Quindi Susi Dal Gesso e con Agostino domani, che curerà il programma. Io sarò ospite. Beh, insomma, ospite. Di te, voglio dire. Sì, beh, è come non mettere i cantanti. Insomma, darò una mano ad Agostino a parlare con Susi e che proporrà, oltre al suo disco, anche delle cover. E la prossima settimana basta guardare il nostro sito, ci sono tanti altri avvenimenti. Buono, bluradioveneto.it, questa sera con noi c'erano i Popmatica e ragazzi, avete... Grazie a Maurizio, voi. Grazie a Sergio, grazie ai radioascoltatori. Un saluto. Grazie a voi. A tutti. Ciao. Buonanotte, grazie e alla prossima, cioè a domani praticamente. Ok, ragazzi, prego. Pedra. Blu Radio Veneto.